E buonasera ragazzi, benvenuti, nuovo programma, sempre lo stesso ma nuovo e non ha una sigla ovviamente. E quindi mettiamo i vomitoni, questi sono i vomitoni direttamente da Los Angeles, California. Marco Gualdi, buonasera. Buonasera, ricordo che questo è un gruppo italiano, esatto. Si chiamano appunto i Vomitoni. Cantano... quindi from Los Angeles, California. No, Vomitoni from Los Angeles, California è il sottotitolo del loro stesso nome. Okay, esatto. Si chiamano proprio così. Ah, in realtà... neanche l'album. No, in realtà sono del Quadraro. Non lo so, del Quadraro. Di un brutto quartiere, insomma. Esatto. E praticamente cantano queste canzoni che sembrano un rock satanico, in realtà cantano l'odio al Signore. In questo momento si può sentire il Signore è grande e ci ricopre con la sua misericordia e la sua pietà, cosa del genere. Ho capito, va bene. E per questa puntata, quindi ricoperta della gloria del Signore, c'è anche Walter Sbano. Oh regà, è uscito il disco nuovo dei Vomitoni. Vomitoni from Los Angeles, California. Devi dire bene, perché sennò no. Okay, vabbè, sì, è combinato con Hostile, lo devi dire tu. Bravo, dai. Bravo. Ma bravo. Il nome dell'album qual è però? E Amen. Amen. Ah, perché mi sento infatti molto ricoperto. No, però ha scritto Amen, cioè nel senso un uomo. Cioè, un uomo. Mi sento molto unto dalla gioia e dalla grazia del Signore. Infatti, sì, quello questa sera. Ma quello è il kebab. Vabbè, va, che bello. Il signore kebabaro. Che bello, kebabaro. Siamo un po' tornati alle origini. Sì, lo vuoi presentare tu? Io mi ricordo solo che più o meno. Oh, c'è un bu. Buccio. L'hai sentito il disco nuovo dei Vomitoni? I Vomitoni from Los Angeles, California. Che cazzo, scusa. Sì, ho fatto finta di non sentirlo. Adesso cercherò anche di dimenticarlo, però va bene. Benissimo. Ragazzi, allora, benvenuti a tutti. Vi diamo il benvenuti a 1, 2, 3. Aperti per ferie. Oh, grandi. Questi sono momenti. Possiamo andare? È finita la trasmissione. Chiuso per ferie. Adesso è diventato così. Abbiamo aperto. Io spero che la base di background che dovremo utilizzare da qui a poco, insomma, si carichi in tempo. Allora io recupero un po' di tempo rimettendo. Allora, facciamo una cosa per riempire questi vuoti. Me ne vado anche io. Vado di là a prendere la birra. No, cerco di rimandare indietro i vomitoni. Ecco, rimando indietro i vomitoni. Quasi che se tu mandi indietro il vomito è brutto. Si dice far risalire il vomito. Macello poi. Esatto. Quindi, ragazzi, questa è la versione estiva di OGM. Anche dei vomitoni, perché quella invernale è molto più hardcore. Sono più pesanti, perché il messaggio, diciamo, diventa da religioso a oltranzista religioso. Quindi, no, poi d'inverno si mettono il chiodo, l'anfibi, fa caldo. Invece d'estate. Come il nostro Signore Gesù Cristo si mette. Esatto. Salutiamo in live Walter Sbano. Ciao Walter, grazie, ci stai ascoltando. E invece from Puccioland, California. E c'è anche Puccio. Ciao Puccio. Da Puccioland. Ciao ragazzi, come va? Ma sai che ti dico, Puccio? Così. Trasformazione! Così. Ce l'abbiamo appena. No, sì, ma questo è un residuo bellico. C'ha solo quello, l'unico pad acceso. Non si sa bene perché. Io mi immagino. Sì, perché uno si deve ancora caricare. Mi immagino Carmine che sotto la musica, cioè sotto questa canzone. Vomitoni? No, questa qui no. Che abbiamo mandato adesso attua la trasformazione di Sailor Moon e si trasforma in Puccio. In Sailor Puccio. Esatto, in Sailor funziona Puccio. Esattamente così. Ah, giustamente, Carmine è l'alter ego di Sailor Puccio, si spiegano tante cose. Allora, intanto ci arrivano notizie, giustamente, che noi abbiamo inviati. Ci arrivano notizie dal parchetto del cane, insomma, dal parchetto dove vanno i cani. C'è la rissa in questo momento, quindi noi auspichiamo sempre che ci siano prove video di tutte le rissa. Aspetta, ma la rissa quella che si sfonda dei kinnerini? Non lo so, abbiamo chiesto, adesso sentiamo il nostro inviato se riesce a produrre della documentazione. Video possibile. No, però non mi fido perché secondo me la nostra inviata non è mai attendibile, perché quando chiediamo i supporti video non li può mai fare. Secondo me è una mitomane che si inventa le risse. Può essere, è vero, non a caso è sempre Michela quella che trova le risse. Forse le risse, perché chiama i carabinieri per risse, forse i carabinieri non gli danno retta. Infatti, quando Michela va a denunciare la prostituzione, non scusi, le credo, qual è il nome e cognome Michela? Ah, no, allora. Che ci sono le prostitute di fronte a casa vostra? Sì, adesso sì, passiamo, sì. Signora. Certo. Va bene. Si spiegano tante cose. Esatto. Infatti, un giorno di questi porterò Michela a fare un urbex a Mombello. Ci venite? Che cos'è un Mombello? Un urbex lo so che cos'è, non so cos'è un Mombello. No, Mombello è Puccio, spiegaglielo tu. cos'è Mombello, cos'è un Urbex? Non è bello un Mombello, ma che Mombello, che cos'è Mombello? Cos'è l'Urbex? Immagino che lo sappiano, spero quantomeno. Personalmente sì. E quando si bucca, no? Si bucca, esatto, esatto. Quando si bucca dove non si dovrebbe. Quelli che fanno le esplorazioni urbane. Andiamo a Mombello vicino a Libiate. Mombello è uno dei più storici, insomma, manicomi italiani, no? Ah, ok, ho ricollegato. Ok, quindi dove vanno a fare tutte le esplorazioni. E poi dopo gli urbex ci vanno pure quelli paranormali, no? Quelli che vanno a cercare. Quelli certo. Paranormali sarebbero. Quelli che so che sembrano normali, ma a parte paranormali. Esatto. Che poi non so se ci avete mai fatto caso, no? Perché voi non seguite. Ci avevo fatto caso? Io seguo l'ambiente, sapete, sono appassionato. Cioè, alla fine quello che succede è che ci sono sempre le anime dei bambini. Deli meglio mortacci perché, loro perché delle anime. Funziona sempre sta cosa. E vanno con i giocattoli. Vabbè, questa è una cosa, cioè uno ci ride, però è triste sta cosa. Comunque sono finiti i vomitoni, quindi fra po' ci smetteremo. Rimettiamo i vomitoni da capo? No, non possiamo, no. Perché questo è l'unico difetto dei programmi di regia radiofonica, è che quando una cosa splitta via dalla playlist bisogna andarla a ricercare, capito? Bisognerebbe ricordarsi il nome del brano, cosa che io... Era Amen, no, Amen l'album, okay. Però se vuoi ne posso mettere un altro, così sì, metti, non so se è dei vomitoni o come magari sottofondo, vediamo un po', questo si chiama Mickey Chamford, senti sotto. Ah sì, Mickey Chamford, esatto. Scritto Trumpford, si pronuncia Chamford. In realtà è scritto Crawford, quindi non è Chamford. Quindi Crawford. Crawford. E praticamente lui fa il... C'è della negritudine in questa... No, è cosa brutta da dire, però insomma lui che cosa fa? Questi canti misto gospel satanista. Tanto abbiamo sentito. Il cameriere qui. Grazie cameriere. Fa questo gospel satanista in cui, al contrario dei vomitoni, fa questa musica che potrebbe sembrare quasi buonista, quasi, non dico ecclesiastica, ma... quasi la musica di Dio, ma in realtà fanno un ode diciamo costante a Bazzuso e a vari demoni del esatto, cioè, quindi se sentite bene il testo, soprattutto se lo ascoltate al contrario, ci sono delle cose molto brutte, molto sataniche che vengono dette in questo testo, ed è uno dei questo è l'ultimo album. Ricordiamo che la numerazione degli album di questo cantante è al contrario. Tanto grazie Ambrogio. E al contrario, cioè lui è partito dal 15° album e sta tornando allo zero. E ogni album diventa sempre meno bravo a suonare e a cantare. Ok. Quindi c'è questa particolarità. Ma non per una degenerazione psicofisica, proprio perché è una sua scelta artistica. È una scelta artistica. Che io condivido poi, tra l'altro. Assolutamente. Dopo che avrà fatto l'album 1, uscirà praticamente con dei demo. Salute comunque. Merda fatti in casa. Salute, Sbano, salute. Dopodiché smetterà di cantare di suonare. Quindi, cioè. Questo è Tracy, come si chiama? Jim Crawford. Sì, no, è Kiki Crawford. Scritto Kiki col KK. Scusate, ragazzi, io però devo riferire un messaggio importante a Simone Pizzi dalla regia. Sì. Simone, ricorda la pasticca della sera. Ah, ok, sì. Però è quello per farti stare calmo e non sentire le voci. Dopo, se prendo la pasticca adesso, poi è finita la trasmissione. Esatto. No, che è quella che non ti fa sentire le voci, giusto? Che è quella se la prendi adesso, non ci senti più parlare. Non senti ovviamente più i famosi bambini. Non sento più le voci, neanche le vostre. Le nostre, quindi esatto. È macello, sarebbe complicato. Bene, ragazzi. Allora, parliamo invece di cose serie, Puccio. Vuoi parlare di cose serie? Parliamo di cose serie. Lo chiediamo a Puccio le cose serie. Però gli ho alzato il volume a Puccio. Scusate, Luca ci chiede: ma è una replica o ha presa per il culo iniziate prima? No, è che abbiamo voluto iniziare prima. Siamo rigorosamente a cazzo in diretta. Io mi sento una replica. Allora, un po' una replicanza. Allora, ricordiamolo che oggi è mercoledì 6 giugno e sono le 20:45. Esatto. Quindi è importante, insomma, capire che a volte durante l'estate noi per far dare impressione che siamo in diretta e far compagnia alla gente mandiamo delle cose che abbiamo preregistrato e mai trasmesso, quindi cosa è inedita comunque. E parliamo di cose che sono talmente neutre non hanno... Infatti non parleremo della guerra che potrebbe essere finita nel frattempo. Esatto. Però ragazzi, abbiamo la foto di Aldo Moro con l'unità di oggi addosso. Che non è... Cioè è Aldo, il farmacista, però è Moro. È Moro. Aldo il Moro. E quindi... però cioè, cose neutre, quindi abbiamo questa cosa della guerra. Aldo che il potrebbe Moro, essere, dai, non si può sentire questa cosa. Il Moro, che potrebbe essere finita, ma forse no. Però nel frattempo c'è questo. La guerra è il Vietnam, giustamente. Una guerra. Non diciamo i nomi, una guerra. Quindi, che c'è sempre una guerra. Ricorda che nel mondo c'è sempre una guerra di cui si potrebbe parlare, ma anche. Tra l'altro, ragazzi, c'è un pettegolezzo che dice che gli americani potrebbero usare una nuova arma sul Giappone. Ah, ecco. Però non so che si intende mo per nuova arma. Boh. No, secondo me sono tutte cazzate. Sì, forse fandoni, un carro armato fandoni. Particolare. Sono fandoni, sono fandoni. Intanto ancora continua a non caricarsi praticamente questa base musicale, incredibile. E poi potremmo parlare del virus, però la spagnola quest'anno non è stata un gran Ah, non è che non si è proprio caricato. Bene, bene. Ma perché per una spagnola come si deve? Serve almeno una quarta di reggiseno. Esattamente una quarta. Quest'anno era un po' scarsina. E la crema anche. E che la crema, certo. Se no poi sfrega troppo, fa troppo attrito. Giustamente, sentiamo l'esperto di Teo Puccio, l'esperto di spagnolo. L'esperto di attrito, esatto. Quindi ci spieghi quali potrebbe essere la controindicazione del senza crema, ad esempio. Scusami, non ti ho sentito, ho perso per un attimo. Del senza crema, quali sono le controindicazioni? Esatto. Fortissimi bruciori nella zona anoperianale. Addirittura. Assolutamente sicuro di questo. A meno che non c'è la sudarella, però pure la sudarella a volte può essere appiccicosa. Cioè, poi d'estate. Stai rovinando la poesia di una cosa con questi. Vabbè, io sapete che devo andare sul dettaglio, anche perché sono una persona curiosa e vuole. Del resto fa la schiuma, ma non è sapone. Non è sapone, la barra. Tra l'altro. Esatto. Tra l'altro, l'altro giorno, scorrendo fra le varie cose di Instagram, che ho notato che nessuno usa più per mettere le fotografie, tra l'altro. Cioè, non so se avete fatto caso a questa cosa. Io mi sono rassegnato. Cioè, nel senso, Instagram viene usato per tutto, tranne che per mettere le fotografie. Tipo per? Tipo video, reel. Si fanno i repost di TikTok. E TikTok, bravo. Esatto, bravo. Ma pure su Facebook e YouTube è così adesso. Pensa un po'. Comunque, volevo dire, mo non so se è una sensazione mia qui in cuffia, ma la base sembra alta. Non so se magari Luca o chi altro ci sta ascoltando. Ecco, te l'ho abbassata. In effetti era alta perché stava a palla proprio. Però vabbè, tanto. Sti cazzi, tanto che sia scusa, tra la base e quello che diciamo noi, cosa è più interessante? La base. La base. Appunto. Ma è per quello che la dobbiamo tenere bassa, altrimenti cioè, ci ruba la scena. Insomma. Esatto, è una diminuzione che ci causiamo noi stessi, capito? Insomma, scorrendo... Scorrendo Instagram, alla fine mi è capitato questo spot di Borra. Però ragazzi, non ci ho avuto la prontezza dei riflessi di fare lo screenshot di come shottarlo. Borra, okay. Io penso che comunque se io fossi un'azienda o avessi un prodotto che si chiama Borra ci penserei due volte. Non so ma se non è che era Barra il ristorante? No, magari. Guarda, io adesso vado a cercare Borra, però ho paura di quello che mi uscirà fuori. Dice che la base non disturbava, allora tiè. Grazie Luca. La rimetto a cannone, no scherzo, la levo. E, tra l'altro è bassa perché in realtà è il file che era già stato preeditato per essere basso. Pensate quanto lavoro noi mettiamo dietro a tutto questo. Lavoro inutile, tra l'altro. Lavoro inutile, tanta passione noi mettiamo in tutto questo. Capito? Autosabotaggio. 500 euro di mixer lì sopra, non c'è nemmeno l'autodacking. È vero. In realtà comunque, c'è. Se volete, vi dico cos'è la Borra secondo Wikipedia. Vai, secondo l'idea di Wikipedia, è un rigurgito costituito da cibo indigesto eliminato da alcune specie animali come uccelli, rapaci, l'uccello e rigurgita dalla Borra, che mangiano la guarda un po', quello è il bolo, comunque vabbè. No. Dicevi che c'è l'autodacking, poi me lo spiegherai, allora sono curioso. In realtà un leggerissimo autodacking c'è, sufficiente, ma è solo sul canale 1, quindi è diciamo il conduttore principale parlando abbassa tutto il resto, quindi compresi gli altri conduttori. Però è molto molto delicato, si sente, perché si sente, e si spera che nella versione 2 invece abbiano inserito un ducking più serio. Insomma. Che noi prenderemo perché siamo abbonati. Mi piacerebbe, però insomma spendere altri 500 euro penso che... Ammesso che costi quella cifra e non di più. Sì, vabbè, comunque diciamo in linea massima. Mettendoci sopra un rene. Ho capito, il rene è stato usato per il primo. O anche il reno. Mettiamoci il reno, anche se l'acqua può danneggiare. È vero. Quale acqua? Ma secondo voi quest'anno in Germania ci sarà l'acqua nel Reno? Beh, sicuramente... Ragazzi, l'acqua serve per fare la birra, quindi io non la sprecherei. Ai germani ci serve l'acqua. Anche se non mi sembra che si lavino più di tanto, Tu ricorderai, Marco, sicuramente lo ricorderai, insomma, perché insomma, quando siamo entrati dentro... quella famigerato pub in Germania dove Michela aveva deciso che che per qualche motivo afgano avremmo dovuto subito morire. Violenze sessuali, esatto, da tutti gli astanti, insomma. Perché quando il signore anziano, perché era un pub, erano tutti anziani, si è alzato, è andato a chiudere la porta, non si sa perché, a Michela già si vedeva. Perché lui è andato. In realtà il poveretto è andato a chiudere la porta perché faceva freddo, l'artrite, insomma, si cominciava a far sentire. Quello poverino è andato a chiudere bestemmiandoci in tedesco. Kartoffeln! Esatto, sono assolutamente d'accordo con questa cosa che tu dici. Però niente, magari ci avrebbe voluto uccidere quel vecchio, ma perché siamo stati molesti, sempre fare casino noi italiani. Gli italiani sempre fare casino, dicevano, insomma. A noi però, per esempio, diciamo che anche Coppuccio non è che ci abbiamo mai avuto, a parte le cameriere scortesi, diciamo, non c'è stato mai le cameriere scozzesi? Scortesi, non c'è mai stato italiano fare casino, sì. Esatto, non ci hanno trattato, ma a parte il titolare del primo B&B che è sparito. No, vabbè, quello non è che è sparito, non si è proprio mai visto. Infatti, esatto, probabilmente non è neanche a casa sua quella. Guarda, dopo le proteste noi ci eravamo accorti con Clelia andando a controllare su Airbnb, che poi era stato rimosso da Airbnb, che insomma. Siamo stati gli ultimi clienti di quel cliente. Primi e ultimi, direi. Oh. Di quella affitta camera. Si fa presta di affitta camere e niente, vabbè, questi sono ricordi. Insomma, il Reno no, io penso che c'è più acqua che nel Po, però secondo me comincia a esserci poca acqua anche lì, insomma. Quindi va tutto bene, vedremo. Ma finché c'è la birra possiamo sopravvivere. Infatti, però fino a che non costerà 15 euro a bottiglia, insomma. Per esempio, non molte marche di acque minerali non possono più produrre l'acqua gassata perché l'anidride carbonica che serve è talmente poca che preferiscono riservarla ai prodotti di tipo medicale, quindi per gli ospedali, per le bombole, eccetera. In compenso la Ferrarelle ha tirato fuori la Ferrarelle etichetta nera addizionata di anidride carbonica, l'ho provata oggi. È come bere una Coca-Cola in sapone, come livello di prodotto. Una Coca-Cola in sapore. Vabbè, ragazzi, immagino una Coca-Cola, togli il caramello, togli la caffeina. Ragazzi, ai tempi d'oro dell'Eurospin, quando proprio la qualità della roba dell'Eurospin era lurida, c'erano dei fardelli di acqua gassata delle marche loro, la Blues, queste qui, che ogni tanto esplodevano perché il livello di gas nelle bottiglie era talmente alto, la plastica delle bottiglie era talmente scadente che ne partiva qualcuna. Beh, ricordiamo, insomma, la famosa, non per fare pubblicità, insomma, perché noi fa la schiuma, non è sapone. Esatto. Cioè, no, quella è MD, l'acqua Perrier, l'acqua Perrier, ve la ricordate? Sì. Beh, esiste ancora. Qualcuno l'ha mai bevuta? In Francia la Perrier c'è ancora, in Italia magari poco, però è famigerata la. No, si trova in molti supermercati la Perrier. Sì, comunque la scena di Fantozzi che l'aveva fatta diventare Berthier perché non poteva citare, però era storica, no? Che lui ci ruttava come un assassino. La Berthier non è affatto pericolosa. Era quella. Sì, è quella che lo fa decollare al casino. Esatto. Bene, allora ragazzi, invece io questa notte ho molto sonno perché questa notte sono stato alzato per vedere la diretta della NASA, lo devo dire, questa è una cosa che mi ha dove hanno fatto vedere le ceppe di cazzo nel cielo. Sì, assolutamente, c'è a un certo punto. Ceppa in the sky with diamonds. C'è, non nella prima foto che hanno fatto vedere, che è assolutamente interessante, sulla quale potremmo stare a parlare ore e ore, però va bene, non lo faremo. C'è sulla terza foto, in effetti, diciamo. No, non l'ho vista. Ho visto una foto con una macchia che poi deve essere. Scusa, ma andiamo ragazzo, al sodo, Pizzi, gli alieni, sì o no? Allora, gli alieni, come dicevo in un gruppo dove stavamo discutendo, siccome c'è stato questo ritardo, diciamo, doveva iniziare alle 11:30 ore italiane ed è iniziata a 12:30, e siccome c'era la presenza di Biden, già gli alieni si sono rotti il cazzo. Diciamo che tutti quanti hanno cominciato a dire: ah, vedi, hanno trovato qualcosa che non ce lo vogliono dire, hanno bloccato tutto, Men in Black, che cazzi e mazzi. In realtà, Joe Biden doveva pisciare, praticamente non c'era, cioè, questa cosa di incontinenza incredibile. Secondo me era diarrea più che. Era incontinenza, però. Cioè, chi è? Pronto? È Pietro. Ciao Pietro. Poi ciao. Saluta John Biden. Saluta Pietro. Poi ciao. Ciao. E vabbè, sono iniziato un po' di ritardo, tutti i complottisti e roba del genere. Poi, fortunatamente, diciamo che l'intervento dei due politici, quindi presidente e vicepresidente, è durato pochissimo. E a un certo punto, pam, hanno mostrato questa prima immagine molto, molto bella, molto significativa, perché poi si sono in realtà resi conto che era la colonoscopia di Biden. Esatto. Beh, no, beh, se era la colonoscopia di Biden, ragazzi miei, era una colonoscopia che arrivava fino a 13,5 miliardi di anni fa, insomma, quindi è molto interessante. Ma guarda che l'intestino siamo lì. E insomma, tra le immagini che poi sono uscite successivamente, c'è questa immagine di questa capocchia che potrebbe rappresentare due cose: o la dimostrazione che esiste intelligenza nell'universo. Noi siamo la dimostrazione che non esiste, non esiste fino adesso. Ma noi poi in particolare noi. Esatto, appunto, noi siamo la dimostrazione empirica che non esiste. Esatto, cioè nel senso che se un giorno una razza iper evoluta cercasse, alla ricerca di forme di vita intelligente, trova noi... Distruggeteci! Esatto, cioè diciamo che... vedi, abbiamo trovato dell'intelligenza, perché non è ancora, non può scindere, no? Che comprendere esattamente se c'è dell'intelligenza, però vede, diciamo, dei lumi di intelligenza, perché vede le parole, vede persone, un mixer, no? Quindi dicevo, questi devono essere forse intelligenti. Cazzo, ci potremmo parlare con questi. Dice, ma questi hanno raggiunta la curvatura. Ma dice, ma questi hanno ancora problemi con la tabellina del 2. La curvatura, purtroppo. Ci possiamo parlare con questi. Con questi finalmente ci possiamo parlare. E poi terra piatta, vaccini, esatto. 5G. Ok, va bene, va bene. Esatto. Stiamo scherzando, possiamo andare. Si allontanano sganciando dei lentissimi ordigni. Giusto che lenti, perché così c'hanno il tempo d'andarsene loro, insomma. Perché secondo me neanche lo fanno. Cioè. Non ci sprecano le risorse. Cioè, no, sono risorse, le risorse sono risorse. Perché poi in realtà una civiltà come la nostra è abbastanza in grado di annientarsi da sola. Ma siamo inefficienti anche in questo, ci mettiamo troppo tempo. No, vabbè. Non pensare, guarda, nell'ambito dello sviluppo umano, è vero, però lo sviluppo umano è un importante risultato, no? Cioè, nel senso, raggiunge la quadra della... D'altronde c'è il paradosso di Fermi, per cui il collo di bottiglia qualcuno, cioè, prima o poi lo raggiungiamo. Che è uno, insomma, con la mano così che fa fermi. Volete raggiungere lo spazio? Fermi. Esatto. E quello è il paradosso di Fermi, cioè nel senso, uno che dice lo dovremmo fare, però no, fermi, capito? Quindi lo potreste fare, ma fermi. C'è una contraddizione, insomma, e questo è, poi tra l'altro è veramente tutto molto interessante. E una discussione in un gruppo questa sera dice, ma insomma, alla fine ancora una volta non abbiamo scoperto gli alieni. Non esiste vita intelligente nell'universo. Gli ho detto, guarda, che è molto più probabile che esista vita intelligente nell'universo che non esista. Però dice, allora dove sono? Come diceva Fermi, sempre la cosa dei Fermi, no? Se questi alieni esistono, dove sono? Sono troppo lontani. Cioè... Del resto, abbiamo determinato che l'universo è infinito, no? Che lo spazio è infinito. Allora, abbiamo determinato. Allora, non è proprio. Base, perché finisci? Non è proprio così, in effetti, se proprio ci pensiamo. Cioè, nel senso, l'universo, avendo avuto un inizio e avendo una fine, in teoria dovrebbe avere, potrebbe avere anche dei confini, ma non lo sapremo mai. Ok, ma dopo questi confini che cosa c'è? Cioè, c'è l'assenza. La stessa cosa che c'era prima dell'universo stesso. C'è l'assenza. Niente. Cioè, nel senso, non c'è spazio, non c'è tempo. Esatto, non c'è tempo, soprattutto quello, perché se l'universo era condensato in un punto... un singolo punto, tutta l'energia dell'universo, e poi ovviamente si è espansa, e vuol dire che quando si fa la domanda allora ma cosa c'era prima, è una domanda che non c'ha senso, cioè non c'era niente, non c'era tempo, non c'era non spazio. C'era il primo. Esatto, non c'era il primo, non c'era il secondo, poi soprattutto, però io preferisco i primi in generale. Ma il dolce almeno c'è? Il dolce, guarda, quello poi dipende da... Non ci arriva nessuno al dolce. No. C'è, dice che non, dice che insomma non c'è. Possiamo arrivare all'ammazza caffè. Beh, whiskietto. Ma posso caffè? Perché vado ad ammazzare? Io questo, cioè, questo mi sfugge, devo dire la verità, mi sfugge. Perché è nero. Ah, vedi, questa cosa non ci avevo pensato. È una... È una cosa estremamente razzista che ci fa onore, insomma. Come sempre, come sempre. Giustamente. Vabbè. Ma poi quindi abbiamo avuto altre notizie da James Webb. Cioè... Allora, James Webb ha tirato fuori altre quattro immagini, di cui c'è una bellissima immagine, veramente bella, ragazzi. Di una nebulosa che ovviamente è tutta ignuda. Questa nebulosa, essendo talmente lontana che oggi non esiste, sicuramente non esisterà più, sarà diventato quantomeno un sistema stellare, cioè una stella sicuramente. Però devo dire, le immagini sono veramente belle, e la domanda che si sono fatti tutti ieri sera, tutti sti colori, no, che si vedono, in realtà i colori, non essendo un telescopio ottico, esatto, bravo, esatto, i colori sono convenzionali, cioè sono delle convenzioni scelte per dare una tonalità alle frequenze in modo che tutta l'immagine sia più riconoscibile al nostro occhio, altrimenti tutto quello che vedremmo sarebbe inintelligibile, insomma, per quanto ci riguarda. Però devo dire, cazzo, che nel cosmo ci sono veramente cose interessanti. E la cosa che ci hanno tenuto ieri sera la NASA, e l'hanno ripetuto 5 volte, è che il punto di spazio che loro sono andati praticamente a focalizzare era praticamente, per capire, era mettere la nostra mano a 1 metro di distanza da noi e vedere un granello di sabbia sul nostro dito. Cioè, quindi sono andati proprio a prendere un punto iper concentrato per andare proprio in iper profondità, e questa immagine ci ha avuto bisogno di un po' di tempo di elaborazione, che è un quinto di quello che in realtà ci metteva Webb, che ricordiamo invece essere un telescopio ottico. Hubble. Che ho detto io? Webb, scusa, Hubble, che ricordiamo essere un telescopio ottico, insomma, quindi con tutti i suoi limiti. E giustamente Walter prima si poneva una domanda, perché insomma sappiamo che Hubble è durato, doveva durare 15 anni, è durato 20, e comincia a perdere un po' colpi, se sbafera il computer, ogni tanto si perde la memoria, lì sono gli hacker russi chiaramente, poi Puccio ci spiegherà qual è il problema. Gli hacker russano causando vibrazioni. E giustamente, che ti sei domandato tu, Sbano? Mi sono domandato, una volta le cose si costruivano per durare, perché durassero, questo nuovo batterà il record, lo eguaglierà o si romperà prima? Secondo me si rompe prima. Allora, no, in teoria per quanto è costato, ho capito, e per quello che è il lavoro che deve fare, cioè questo è un altro, è un telescopio che dovrebbe durare almeno altri 10 anni. Poi in realtà sono già in progettazione degli altri telescopi, sempre in deep space, cioè nel senso sempre in... nello spazio, diciamo, lontani dalla Terra, che insomma nei prossimi 4-5 anni verranno lanciati. Quindi diciamo che questa è un'era d'oro per chi ama l'esplorazione spaziale. Il raggio di esplorazione. Per chi vende telescopi spaziali, un'era d'oro. Anche se poi in realtà il nostro limite, che è il limite che ha posto proprio James Webb, è comunque di arrivare fino a 13,5 miliardi di anni luce, il raggio massimo che noi possiamo vedere, e dato che l'universo è in continua espansione, il resto non lo vedremo mai. Non vedremo mai tutto il resto, non potremo proprio mai vederlo, un limite fisico, ma poi anche quello che vediamo oggi fra un po' non lo vedremo più, perché comunque l'universo continua ad espandersi, e ciò che è al limite della nostra possibilità di essere visto fra un po' non sarà più visto, insomma. Allora Luca ci faceva notare, probabilmente parlando di Hubble, che la durata teorica stimata di Hubble fosse di 5 anni. Ah, 5 anni, non di 15, ok, io ricordavo 15. E beh, è durato un boato comunque la bolla, ragazzi. Cioè, ma ripeto, le cose una volta si facevano per farle bene, adesso io... Ma perché mi nonno, scusa, ma queste sono cose di ipertecnologia, non è la carpenteria di nonno. Non so, non è che cosa costa 100 lire. Esatto, io non penso che Hubble... No, web, ufficialmente Web 5 anni, allora non Hubble. Beh, 5 anni è poco, quello che è costato, finiamo nemmeno di pagarlo. Eh sì, questo è vero. Però è vero pure che secondo me poi durano di più. Perché ricordiamo che pure la stazione spaziale dipende tanto da come dagli eventi avversi, perché arriva il meteoritino. In teoria dovrebbe essere preposto a intercettare e schivare, in teoria, insomma, da quello che mi ricordo io. Però pare che già una pigna l'abbia presa, ma che questo meteorite, insomma, non abbia fatto danni, grazie a Dio, perché veramente ce l'abbiamo fatta, è in posizione, la prima fa bam. Sarebbe stato divertente. E poi quando esci dall'autosalone e ti arriva uno scheggio sul vetro. Pam. Secondo me sarebbe intervenuto Trump dicendo che i soldi sprecati dai comunisti, colpa dei comunisti. Ragazzi, insomma. Trump ha detto l'altro giorno che la questione dello scioglimento dei ghiacci non è una, è proprio una cazzata, e che bene male che vada, pazienza, ci saranno più case vista mare. Io non so se vi rendete conto. Sì, ma da sotto però. Di che persona stiamo parlando? Vabbè. Che è un idiota. Comunque, in ogni caso, c'è chi lo vota. Tanti idioti più di lui. Io comunque, ragazzi, continuo sempre a sostenere che un politico che arriva a quei livelli non è mai un idiota. per quanto a noi possa sembrarci un idiota o lui voglia sembrare idiota per allora, i soldi e i giusti consiglieri che puoi comprare con i soldi possono farti arrivare dove normalmente non arrivi. Questo è vero, questo è vero, però secondo me i soldi poi reggono fino a un certo punto. Consiglieri di gente che utilizza Bannon ultimamente, avevo sentito che era disposto a fare una testimonianza. Boh, non lo so. A favore, no, anzi, a sfavore di Trump. Beh, lì una volta che sta nella merda, pur di ottenere uno sconto. Ho sentito una cosa del genere. Ma non, no, non lo so, però non fatico a crederci. Cerco la notizia, vediamo. Tanto vai, cerca. Cerca. Non so notizia. Se Puccio, magari lui che è il nostro. Ma lui, in questo periodo, Puccio c'ha da fare. No, però effettivamente è vera sta storia che lo. In pratica, pare che non è che lo hanno proprio convocato. La prima volta ha rifiutato. Adducendo scuse tipo segreto professionale, roba a cui pare non avesse diritto, poi perché in realtà lo hanno convocato, sì, una roba del genere, psicologo. No, mi ha confessato una roba del genere, no, se l'è venduta col fatto che era tipo un rapporto avvocato cliente, in pratica ha tirato fuori che loro avevano lavorato insieme per tramite di uno studio legale, cioè, ha tentato una cosa estensiva del segreto, specchi, sì, ma difatti lo hanno rimbalzato allegramente, difatti comunque è stato convocato e deve rispondere alla convocazione che ha avuto. In realtà la cosa divertente è che uno lo hanno sentito a porte chiuse e se lo giocheranno pare alla fine, uno che tra l'altro c'ha un cognome simpatico, si chiama Cipollone. Oh, che è stato, è stato l'advisor di Trump durante la rivolta del 6 gennaio e pare che sia stato il primo ad andare a dire no guardate che questo, cioè, li ha proprio istigati, non ha voluto che intervenisse la Guardia Nazionale per fermarli eccetera eccetera, era contento, e poi è venuta fuori questa roba che pare sia stata a porte chiuse e confermata da questo suo ex advisor, che mentre scoppiava il casino e i servizi segreti si stavano portando Trump in un luogo sicuro, lui abbia cercato di afferrare il violante gridando portatemi lì, sono il fottuto presidente. Sì, sta questa cosa è uscita un po' dappertutto. Sì, sì. Pare che il responsabile delle guardie di sicurezza l'abbia tipo spinto sul sedile posteriore con tutta la delicatezza di cui era capace, speriamo poca, e tipo mio figlio che non vuole salire sul seggiolone, lo hanno ignorato e se lo sono portato allegri e felici in una località protetta. Beh, comunque sono sempre belle cose che succedono in questo splendido paese che si chiama Stati. Ricordiamoci che purtroppo in questo caso la località protetta non era Guantanamo. Guantanamo, no, purtroppo no. Però ricordiamoci che per, insomma, per mantenere sempre, perché voi dovete considerare, no? Che quando, cosa fa una famiglia importante che ha una certa posizione di prestigio? Schifo, no. No, che senso? Cosa fa? Cioè, nel senso, una famiglia importante che ha del prestigio, cosa tende a fare, insomma, nel senso che... Ma in che condizioni? Qua, cioè... Nel senso che tende a difenderlo il proprio prestigio, anzi ad aumentarlo, cioè nel senso comunque a... Ma veramente pare che l'abbia scaricato pure la figlia? No, però aspetta, è un altro discorso quello che stavo facendo io. Intanto vedo delle intromissioni su Skype, forse c'è Francesco. Buonasera Francesco. Però non gli va di parlare, vabbè, no, non fa niente. Oramai è diventato l'uomo del mistero. Sì, è diventato l'uomo del mistero, Francesco. Comunque. Se non collego il microfono al segreto, immagino. So. Comunque. Perché siamo tutti esperti come a te, che cazzo. E io c'ho tutto, ciao. Basta che accendo e sono pronto, quindi. Stai registrando benvenuto. Piuttosto? No, chiaramente no. No, questa cosa non dovrà mai essere ricordata. Esatto. Comunque, quando una famiglia ha un prestigio cerca di difenderlo, e la stessa cosa fanno gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è come una famiglia con un proprio prestigio, diciamo una propria immagine più che un prestigio. E qual è questa immagine e prestigio che va difeso? Quello di sparare ai negri per strada, che è una cosa importante perché... Cioè, se tu poliziotto fermi uno per eccesso di velocità e quello si spaventa e scappa, almeno 60 colpi d'arma da fuoco sulla schiena glieli scarichi, perché sennò. No, ma non solo, poi bisogna difendere la vita umana preservando un feto di poche settimane rispetto alla madre, ricordiamocelo anche quello, le madri possono morire, perché i feti vanno salvati. Vabbè, ma Walter, però che cazzo, cioè, a volte mi pare stupido, è normale che... E Dio non vuole! Ho capito, ma infatti Dio non voleva neanche ragazzi, i negri. Infatti è bravo, vero, bravo. Ma soprattutto... Giustamente la gente, come disse pure una, non so chi, è un intervento a queste convenzioni, queste cose che fanno qualcosa. No, sta tizia disse: noi vogliamo che il feto nel grembo materno sia al sicuro come i nostri ragazzi nelle scuole. Ecco, esatto. Ho detto così, testuali parole. Ed è esattamente così. Anch'io voglio che sia così, allora, allo stesso livello di sicurezza. Ma è così, sì, se ci pensi. Quindi... Ricordiamo il meme fantastico di quando, mai risale a quando il Texas decise per abolire l'aborto, secondo il quale invece che diceva che il Texas comunque avrebbe ammesso l'aborto purché praticato con una Colt. Esatto. Quindi, esatto. Comunque, caso, quella è autodifesa. Nemmeno per questa stagione di Aperti per Ferie abbiamo il jingle per la rubrica Ti racconto un meme, ma prima o poi ce l'avremo. Allora, non abbiamo il meme, non abbiamo il jingle per il meme. Abbiamo un meme che racconta il meme, cioè che ci presenta il meme, e che è questo? Memception. No, vedete, questo è il meme che ci annuncia, no, appunto. Scusa, vedete, no? Cioè, noi siamo dei professionisti, l'abbiamo insegnato, cioè abbiamo fatto scuola da questo punto di vista, quindi ci vuole poco. Uno, due, tre. Racconta un meme. È finito, scusa. Ci sta prendendo gusto. Niente, questo era blobbato chiaramente perché e questo quindi c'abbiamo il jingle, c'abbiamo il jingle. Quindi vuoi raccontare il meme? Abbiamo appena raccontato. No, abbiamo già raccontato. Abbiamo anche un ictus oltre a un però. Ma noi allora un meme sigla finale della il fatto della rubrica che racconta i meme. Ragazzi, ma invece a proposito, scusate, la butto lì. A proposito di è finito il meme, quindi dobbiamo fare la sigla di chiusura della giusto. Uno, abbiamo due, tre. Abbiamo raccontato un meme. Time Radio racconta il meme. Questa è la regina che gode, giusto? Ma io ve l'ho detto che a settembre vado su QWERTY, vero? Su QWERTY. Su QWERTY. No, no, vabbè, si scherza. E no, dicevo. Ah, scusate. QWERTY, io, QWERTY. Vai su QWERTY, vai. Mi sono perso qualcosa, ma comunque su QWERTY, cioè, che c'è rimasto, ho tolto il fantastico fumble. Ma anche questi cazzi, comunque, diciamo. Non divaghiamo di network, vabbè, perché pare brutto. No, perché ricordiamo che si sono presentati come il primo network dei podcast in Italia, insomma, quindi... Ero io che volevo triggerare Simone. La morte è sempre una pena leggera, ricordatevelo sempre. Quindi, è sempre leggera, ci vuole la damnatio memoria. Memoria. Sì, assolutamente. Comunque, io addirittura volevo dire una cosa: dato che prima stavamo parlando del primo e del secondo, dopo il primo e il secondo, che ci sta? Il dolce. Ucraina, magna torta. Lo devo un po' pompare, devo dire, questa cosa, che purtroppo ha fatto il suo tempo, diciamo, la verità. Ormai no, anche perché, ragazzi, tutti puntavamo sulla torta della nonna, no, infatti, per vincere la guerra, ma niente, ancora è vero che oggi siamo al 5 di aprile, per cui insomma, cioè... Beh, il 5 di aprile, ricordiamo, alle 17:42, e quindi per quelli che ci stanno ascoltando il giorno in cui verrà mandata in onda questa trasmissione, sperando che sia in diretta, noi siamo comunque contenti, esatto, di farvi, cioè, compagnia. Questo jingle adesso, che è appunto il 5 di aprile, insomma, sono, sì, dimenticato perché a tempo non so, fa riderissimo, sì, proprio adesso fa riderissimo, io... certo, magari fa qualche mese. Tra l'altro, ragazzi, io vi voglio dire una cosa, perché a proposito, visto che siamo ad aprile, dobbiamo cominciare a organizzare il programma sui mondiali per quest'inverno, perché dobbiamo fare la telecronaca delle partite dell'Italia. No, aspettate, perché sicuramente ci qualificheremo. No, aspettate, io, secondo me, dico una cazzata, però secondo me quest'anno abbiamo dei problemi, eh? Io spero di no, però secondo me no. Secondo me non superiamo il girone quest'anno. Probabile. L'Italia passa il solito catastrofista. Comunque, sì, abbiamo, ragazzi, vinto l'europeo. Dobbiamo riintervistare Dieter perché abbiamo trovato un caso analogo al suo. Dieter, sì, non sei solo. Analogo. Ah, tra l'altro, scusate, però insomma, siete proprio un così, po' hai ammazzato Bruce, sì, perché Banner. Vabbè, volevo parlare della tristezza del Bruce Banner. Sì, grandissimo telefilm degli anni 80, poi 70. Lì era David Banner, tra l'altro. Non so per quale motivo, forse David, Vuoi saperlo? Io lo so. Lui lo sa. Vabbè, dopo me lo dici. Dopo me lo dici. Però, dopo ce lo spiega Puccio. Si accavallano. Ci abbiamo il jingle. No, non ce l'ho. Che schifo. Hai ragione. Hai ragione. Un'impreparazione. Ma semplicemente perché oggi ho rimontato tutto e mi sono scordato di attaccare gli hard disk esterni. Quindi non ho visto. Però se lo vado a cercare su Telegram, secondo me lo trovo. Comunque. Ma sei una persona che io conosco. Se facciamo il volo, di mandarti il NAS che hai scatolato, tra l'altro, col tuo indirizzo qua sotto, tra l'altro potrebbe tre mesi. Secondo me si è espresso male, ti ha appena detto potrebbe che ti manda i NAS a casa. Io non voglio dire niente. Vabbè, ma vengano pure. Tra l'altro, se qualcuno su Telegram trova il jingle, perché sicuramente te li sto passando io. Un momento, grazie. E comunque, volevo dire che dato che abbiamo parlato dell'Italia, campione d'Europa, roba del genere, ricordiamoci che oggi che giorno è? Oggi è il 12 luglio ed esattamente 40 anni e un giorno fa l'Italia vinceva i campionati del mondo in Spagna, e per me quello è un ricordo bellissimo della mia gioventù, infanzia, si può dire, 11 anni è gioventù o infanzia, non so. Infanzia tu. Quindi ora insomma è stato un momento bello, perché mi ricordo è stato il primo mondiale che ho visto che l'Italia ha vinto, ero in famiglia, ero in un posto che amavo tantissimo in quel periodo, quindi è veramente un bel ricordo che, come tutti i ricordi, giustamente quando morirò andrà perduto come lacrime nella pioggia. Grazie al cielo se arrivi a farlo perdere quando muori e non prima, quando grazie agli Aiktas, sennò è un problema. No. Cosa? Che dici? Che dici, bambino? Che dici, bambino? Salutaci. Okay. Bambino, però, non c'è, ragazzi, niente qui per te. Questa musica mi è d'opportunità per raccontarvi una cosa. Avremmo potuto, ma purtroppo non possiamo, fare un coccodrillo prestigioso questa sera. Perché sarebbe potuto morire, ma non è morto, Pippo Franco. Perché, silenzio, perché a causa del vaccino che non ha fatto, è stato colpito da un'ischemia transitoria, vero? Beh, diciamo che per noi è morto comunque. Ma da mo', questo bisogna... anche artisticamente, da mo' che è morto. Artisticamente non c'è mai stato. Probabilmente. Diciamo così, comunque mi hanno mandato tutti i jingle tranne quello di Puccio, insomma. E stanno arrivando tutti. Ah, ok, vedi. Poi comunque vorrei ricordarvi che farlo al sempre... Esiste sempre la teoria Paul McCartney secondo la quale Pippo Franco è morto in incidente in Puglia ed è stato sostituito da un sosia. Ma che io la ci Rai credo, perché era talmente cioè, famoso e popolare che il mondo non poteva permettersi di perdere Pippo Franco. Dipende, quindi esatto. È normale che lo abbiano però sostituito. Ragazzi, oggi è morto qualcuno veramente. Qualcuno morto che, un sacco di gente, oggi no, è morto qualcuno che in qualche maniera è rappresentativo della nostra infanzia. Grande mago Francesco, tu lo sai chi è morto oggi? Vero. Francesco se n'è andato. E nel frattempo ce lo sta ricordando anche Luca, che dice: ma è morto il grande Tony Binaretti. Lo stavo ci dicendo, stavamo per arrivare. Per arrivare, è morto. Ha fatto l'ultima magia, dai, ricordiamolo con poesia. È vero, è sparito. No, il trucco è: io adesso mi metterò dentro questa bara e ne uscirò soltanto fra 200 anni. Apposta. Dobbiamo aspettare. Non lo sapremo mai. Tra l'altro, volevo dire sulla questione di Pippo Franco, che è molto importante, è che è stato dimostrato che questo ictus, che fortunatamente, grazie al cielo, insomma, non è stato così importante. Ischemia. È comunque. L'ictus può essere ischemico o embolico, quindi. Vabbè, quindi è comunque un ictus, dici. Questo vorresti dire. Di base, sì, non hai detto niente di errato. Diciamo che l'ischemia è, diciamo, un sottotipo di ictus, ma vai avanti. Ok, volevo dire che comunque questo ictus che mia che sia stata sto corpo che magari gli piace è chiaramente e ufficialmente motivo causato dai vaccini, cioè nel senso è dall'invidia del vaccino, perché lui è stato vicino a persone vaccinate e questo lo ha messo in pericolo. Esatto, perché perché a quanto pare non è tanto il problema di vaccinarsi o non vaccinarsi, però essere a contatto con persone vaccinate mette in pericolo le persone non vaccinate. Poi ridete e scherzate, ma vi ricordo che al 18° mese dal primo, dalla prima dose morirete. Esatto. Un anno è passato. Okay. Quindi ci restano 6 mesi. A Capodanno moriamo, insomma, c'è una cosa del genere. Che tutti insomma, massa, che tutti quanti. Cioè manco la Befana. E il mondo sarà dei non vaccinati. Pensa che meraviglia. Culo. Mamma mia. Che bella cosa. Quindi dentro Italia... 3 anni finirà anche il mondo, praticamente. Sì, perché in Italia restano 7 milioni di italiani. Beh, in fondo, per chi ama la lettura, e suggerisco sempre di leggere Io sono leggenda, il libro originale, chiaramente. Difficilmente di tutta sta gente saranno alfabetizzati, però ok. No, però diciamo che alla fine come finisce il film? Che insomma finisce col fatto che quelli che sopravvivono sono gli infetti che costruiscono la nuova civiltà alla fine. Ah, pensavo che stessimo parlando del film, cioè che incontra una donna e muore, perché più o meno quello. Beh, anche quello succede in realtà. Sì, diversamente. Sì. Diversamente da quello che succede nel libro, ma no, tutta sta roba. No, ma cioè, più che altro, cioè, succedesse veramente una roba del genere. Sarebbe la prova del 9 che Asimov era troppo ottimista, no? Che sperava che si sarebbe salvata la gente con le conoscenze tecnologiche, scientifiche. Cazzo, Asimov era troppo ottimista. La gente con la scienza, con la tecnologia, col progresso si fa ancora più male. Dici? Beh, mi sembra evidente. E saremmo morti tempo fa, se molto tempo fa. Passo in questi bias negativi basati sulla tua psicopatia. Vabbè, mi sembra una cosa in questa visione ultra distorta. Perché voi non lo sapete, ma in realtà c'è Walter che a casa sua, quella nuova, fa i pentacoli col sale per evocare gli asteroidi. Sì, sì, magari, sì. Infatti, prima di mettere i mobili in soggiorno, ne farò uno grande come tutto il soggiorno. Spero che dall'alto si veda, perché finora tutti i tentativi sono finiti a vuoto. Scusa, ma adesso che fai tinteggiare? Fa direttamente un pentacolo sul soffitto. Cioè. Ah, cioè. Però, scusate, ma Puccio, poi alla fine ce lo spieghi sta cosa dei banner. Ah, sì, ho trovato, vai. E mo ce lo spiega Puccio. Ma no, ste cose sono sempre lunghe. Porca miseria, ragazzi, non è neanche la versione originale, perché la versione originale era più stronza, esatto. Perché a un certo punto finiva, tu cominciavi, e tu già avrai che lui ricominciava, e quindi però la pizza è stato buono, c'è proprio un consiglio d'amico, sti jingle asciuga, che... no cioè, quello è il no bello, sono belli così, cioè, adesso, costa, cioè. Dopo tu che stavi aspettando, ma mo inizio invece no, quello non finisce mai, poi tu inizi a parlare e lui ricominciava un'altra volta, però poi ho detto vabbè è troppo stronza come funziona, che è giusto. Stavo dicendo, no, in realtà lo spiego Stan Lee e fa ancora riderissimo come cosa. In pratica lui gli arriva la sceneggiatura della serie TV perché si erano riservati il diritto di approvarla, e lui guarda la sceneggiatura del pilota e si rende conto che viene chiamato Robert, e guarda lo sceneggiatore e gli dice: guarda, si chiama Bruce. E lo sceneggiatore gli risponde: sì, ma Bruce è un nome troppo gay. E quindi è diventato Robert. Ah, per quello, non no, per David, questo. Non Robert. Noi avevamo fantasticato per ragioni dei diritti. Che magari... No, per quello. David. Non era David Banner. Sì, era David Bruce Banner. Sì, ma difatti poi nel fatto più o meno hanno retconato la cosa nel corso della serie, perché a un certo punto lo chiamano per esteso parlando credo di un documento firmato da lui, e viene riportato come David Bruce Banner. Quindi ma vaffanculo. Scusate, però c'ho una domanda, perché io mi ricordo benissimo questa cosa, che lui cerca di essere buono, poi si incazza e diventa Hulk, si strappa la camicia. Più che altro non è che cerca di essere buono, cerca di mantenere la calma. La calma, esatto. Esatto. Che poi tra l'altro, cioè, sì, è muscoloso, però non è che chissà che cazzo diventa, no? Nel senso... Vabbè, nei fumetti, nei immagini dell'epoca. Se devi fare le cose, falle bene, se no se devi fare una merda, non la fa. Non puoi fare un Cristo di 3 metri in 80. Insomma. Simone, cioè, all'epoca c'erano due scelte, Lou Ferrigno e Andre the Giant, che all'epoca era troppo giovane e troppo sensibile per fare quel personaggio. Quindi alla fine hanno preso quello più grosso che stava, che era Lou Ferrigno, e quello è. Lou Ferrigno strappandolo da una grandissima... carriera di calciatore nel Brasile, giustamente, perché in realtà lui dice strappandolo da una carriera di modello e bodybuilder. Era un culturista. Vabbè, bodybuilder lo era sicuro, voglio dire. Mo quanto potrebbe essere fulgida la sua carriera, non lo so, anche perché non so che carriera hanno i bodybuilder. No, però, ma poi non era nemmeno tutta sta bellezza. Comunque lui si incazza, si trasforma e si strappa la camicia, no? C'è sempre che la scena è la stessa identica su tutti i telefilm, se voi vi ricordate. Sì, ma mica lo facevano solo nei telefilm, pure nei cartoni animati della Marvel. Sì, ma nei cartoni animati era più giustificato, sì. No? Nei telefilm era lo stesso motivo, ossia ragioni dei costi di produzione, cioè nel senso comunque abbattevano tantissimo. Sì, ma era lo budget. Però faceva ride, dai, diciamo la verità. Tieni presente che era talmente lo budget che hanno riciclato pure delle scene di duel di Steven Spielberg. Sì. Ci sono anche delle scene di inseguimento con le macchine che erano scarti di altre produzioni, sì. Cioè sta di tutto là in mezzo, terribile, insomma, una bella merda, diciamo. Però comunque la cosa bella è che lui si strappa, tutta quanta la camicia, no? Lui diventa nudo, va in giro, so urca, porco qua, porco là, mena a tutti, e poi dopo lui ritorna che c'ha la stessa camicia. No, sempre strappata la camicia. Ah, sempre mezzo nudo. Però nella puntata dopo, la camicia è sempre quella. Beh, certo, perché per motivi di budget. Cioè, questo c'ha una camicia sola che la strappa e poi se la ricuce e sta rimetti. C'è sempre essere. Lui comprava in stock in botte da 100 camicie. Okay. No, dobbiamo ringraziare chi aveva le mutande super elasticizzate. Ecco, quelle non si strappavano mai. C'è una puntata nel quale lui praticamente, dopo che si è ritrasformato e sta praticamente tutto con i pantaloni tutti quanti strappati, dice c'è bisogno proprio che mi compri i pantaloni elastici, fa questa battuta. E c'erano gli anni 70, in realtà, no? Poi certo. Guardate che l'hanno fatta questa battuta, c'è nel, mi sembra in Avengers o no c'è anche no c'è anche nei film. E tra l'altro quando lui la fa nel film, la fa davanti a un personaggio che in quel momento come si dice, l'uniforme da guardiano del posto dove si è schiantato Mark Ruffalo, e quell'attore era un personaggio ricorrente nella serie dell'Incredibile Hulk, era uno della task force che gli dava la caccia, quindi era anche giustificata da quel punto di vista, era una mezza citazione, perché Luferrigno non ha mai voluto partecipare a comparsate troppo evidenti. Quello intanto, che faceva intanto rientrata, scusa se ti interrompo, ma è rientrata la base, la nostra inviata sul campo di battaglia. Ci racconti tirava le bottiglie al cane, cioè no, spiega qua, il microfono è questo, albanesi che tiravano le bottiglie ai cani, albanesi che menavano i cani, che cosa albanese. Razzista spacca bottiglie, ammazza cane, una famiglia, no no, ma quello non sono una famiglia di italiani. Vabbè, poi ce lo racconta e poi ve lo racconteremo, perché senza microfono è un po' complicato. Alla fine della discussione l'albanese ha tirato la bottiglia al cane. Così, ma con la discussione con chi? Con l'altra famiglia. Ah, con l'altra famiglia. Quindi il cane era dell'altra famiglia. Sì. Cioè lui invece di prendersela con l'artice è presa col cane. A me è pure un pezzo di merda, insomma. Sì, merda, merdissima. Merda. Vabbè, quindi lasciamo per The Hulk, ma poi alla fine la leggenda che sto Luferrigno è morto di cancro per via della vernice. No, è ancora vivo e vegeto. Luferrigno ha fatto anche delle comparsate in l'incredibile Hulk. L'incredibile di Ang Lee. Di Ang Lee compare, fa il l'omino delle pizze. Sì. Fa il rider. Sì, davvero. Sì, sì. C'ha 70 anni, è nato il 9 novembre del 51 Ferrigno. E dalle ultime foto non sta neanche malissimo, quindi, voglio dire, si è mantenuto. Non bene come Schwarzenegger, per carità. Però, quindi la vernice, secondo me, fa forse... bene, esatto. Va bene. Basta che non fosse un piombo. Però. Ragazzi, ma per dire quanto alcuni noi abbiamo dei pregiudizi, no? Tipo, i concerti dei Rolling Stones recenti sono più di 80 anni. Vedete che la droga fa bene? Poi quanti 80 anni conoscete che possono leggere un concerto? La droga fa bene, se quello è l'effetto che ottieni. Ne puoi trarre solo questo stretto consiglio e il medico, insomma. Diciamo che esatto. Keith Richards in particolar modo evidentemente l'ha fisiologizzata praticamente. Sì, sì, sì, no, lui secondo me la produce con degli organi interni nuovi che gli sono cresciuti, tipo mutante, una roba del genere, assolutamente. Non c'è un'altra spiegazione razionale. Tra l'altro, è stato un paio d'anni fa che ha fatto pure il coglione, è andato a raccogliersi un cocco da solo mentre era in vacanza, è caduto di testa e si è ripreso benissimo dopo una settimana. Cocco bello, cocco fresco. Infatti in chat chiediamo come potrebbe chiamarsi questo nuovo organo di Keith Richards che ha sviluppato per autodrogarsi. Come questa, il droghiere, insomma. Chiediamo appunto in chat se possono dare un nome a questo. In chat non c'è nessuno, che cazzo. Qualcuno c'è sempre. Si potrebbe chiamare anche perché adesso siamo il 5 febbraio e quindi da qui a quando poi uscirà la puntata. Voglia gente in chat. Ma infatti fa un po' freschetto, ragazzi. Sì, infatti io spero che ti sia portato l'ombrello, Marco, perché sennò per tornare a casa. L'ombrello, c'ho dentro di me l'ombrello. Ma dentro di te, insomma. Ma invece Sbano, perché ovviamente ne ha comprati due, quindi uno. Che si racconta a Monterotondo, Sbano? ma guarda che si racconta, beh, le solite cose. Io poi this is the new rubrica, dice l'amico Desbano. Lo ripescagli tutti. Però in realtà adesso dobbiamo sapere cosa dice l'amico tuo. Parlaci dell'amico tuo che ti dice, ci ha raccontato qualcosa. No? Che poi, tra l'altro, devo dire che questo come sonorità, come È troppo figo. È più bello, il più bello di tutti, questo. Cioè, nel senso, cioè, proprio la profondità del la profondità del jingle. E niente, raga, che si dice? Io passo le mie giornate tra ufficio, casa e casa nuova. Ah, è vero, ma l'hai raccontato in OGM. Non è, questa non è OGM, è un altro programma diverso, è molto diverso da quello che è OGM. Riraccontare tutte le cose. Che hai comprato casa, giusto? Ah, quindi Simone, adesso sei un partito. No, c'è un problema. No. Essendo il 9 dicembre. Non l'hai ancora comprata, hai ragione. Sta cercando. No, nemmeno, 9 dicembre nemmeno. Perché tutto è nato come un ictus improvviso a inizio del 2022. Ho detto, io devo cambiare qualcosa, ma non mi va di cambiare la macchina. Che faccio? Mi compro casa. Ho fatto così praticamente. E così si fa. Cioè, almeno la macchina poi dopo si rompe, la casa rimane in teoria. Insomma, ce la curiamo. Poi quindi, vecchio palazzetto del 1700 si è resistito fino a mo'. Ma sai che c'è sempre un punto. Come diceva il punto di rottura. E come diceva il Sorfunari, è come il pugile. Tu il pugile dai 5, 6, 10, 100 cazzo. Allora, tipo intanto, che a un certo punto gli dai puffa il corpetto e casca per terra. Intanto facciamo la recensione di casa Desbano. Prima di tutto. Bisognerebbe fare un com'era. Allora, com'è, non lo so. Aspetta, te lo dico. Allora, prima di tutto, come tutte le case del centro storico di Monterotondo, devi fare scale. Questo già. Diciamo, però, come tutte le case in generale, a meno che non hanno l'ascensore, devi fare scale. Però lì so che scale più, capito? È come l'ufficio tuo, che c'è scale storico. Queste scale tutte impennate, capito? C'è una cosa di caratteristiche, pizzi sulle caratteristiche. E poi per entrare dentro casa di Sbano devi mettere dettaglio. Cioè, nel senso. Io non metto dettaglio. No, io. Infatti, vabbè, io sto parlando di me, chiaramente. Cioè, non è che. Per il resto la casa è composta, diciamo, da un cucinino, una cucina, un salotto abbastanza grande, un corridoio, una camera da letto e un cesso. Ci sta. La casa caruccia. A me mi ha solo fatto un po' di timore quando ho messo il piede sul lato del mobile che comincia a fa gri. Però dice che è normale. Però dicono che è normale. Il solaio è ferro. Il solaio è ferro è elastico. E quindi la casa è carina. C'ha sto finestrone che dà proprio sul centro storico. Tipo che Walter, che ne so, un giorno che si annoia, si affaccia. Signor, che faccio la mangiare? A chi sei figlio, signor? Chi sei figlio, capito? È così. È giusto, Sbano. Tu sì, poi più o meno sì. No, beh, devo dire che sì, l'hai descritta abbastanza bene. Poi. C'è pure il vicino laziale poi, ma c'è un adesivo d'epoca per la verità, quindi in realtà non si sa che risale, non so bene esatto forse parla di Rubensosa, di Chinaglia. Quindi non so dire se adesso ci siano dei laziali, dei romanisti, degli acalcistici, non ho la più pallida idea. Credo sia di rimpettai, come si dice, una coppia giovane. Ma tu l'hai visti? L'ho intravisti, sono una coppia giovane. Perché? Mentre alla mia sinistra guardando la porta alla destra guardando da fuori c'è una signora di una certa età abbastanza, insomma. Allora, diciamo una cosa, che dove abita, scusa, ho dimenticato di dirlo, dove abita Sbano, cioè i vicini di fronte che non cioè, sono giovani, dice vabbè c'è la vecchia e poi c'è una casa abbandonata, raga, è urbex, ma in realtà sì, c'è sto pezzetto completamente è abbandonata, sì, quella sì, completamente tutto le finestre rotte, cose, esatto, cioè. Però in realtà c'è un cancello anche abbastanza robusto che porta a un ulteriore piano dove ci sono almeno un altro paio di appartamenti, di cui uno è in vendita perché lo ha messo da poco in vendita un agente immobiliare che lavora nel mio stesso coworking. E accanto, se vi interessa, c'è un signore di una settantina d'anni che vende la nuda proprietà di un ulteriore appartamento. Se volete fare investimento, quasi. Io lo so perché, comunque. Cioè, nel senso, prende la macchina a ciaccare. Perché la casa abbandonata è chiaramente infestata. Cioè, infestata. Quindi, E sarebbe da vedere, ma in realtà non è nemmeno una casa. Sono tipo l'avanzi di una mezza. Di una pertinenza. Forse è una cantina, proprio. Potrebbe anche essere una cantina. Pertinenza. Senti, che cos'è una pertinenza? È una small house. Cos'è una? Una small house, una tiny house, una tiny house, ok. bello, bello. No, no, comunque secondo me vengo lì con il rilevatore dei campi elettromagnetici, la telecamera e ci facciamo una puntata e su YouTube spaccamo come minimo. Insomma. Potrebbe essere un caso di psicosomia... Psicofonia. Da scusate le cose, bisogna essere precisi. Sì. Sì, sì, poi insomma io non ho ancora comprato il materasso, quindi non ci ho ancora dormito, ma insomma mi auguro, mi riservo di farvi sapere dopo la prima notte quando infestata. Comincerai a dormire capirai che quelle immagini che vedi proiettate nel muro non è assolutamente un riflesso che viene da fuori, ma è nonno. E nonno. Nonno di qualcuno. C'è sempre il nonno di qualcuno, no. Insomma. Beh, male che vada, spero di fare come Resistance in Ghostbusters. Te porti il gatto? Ma te lo porti il gatto? Eh beh. Allora, avendo il gatto guarderà nonno e nonno guarderà il gatto. Ci sarà questo amore. Alice guarda i gatti, esatto. I gatti guardano il sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Quando guarderà un punto preciso del muro, che tu dirai che c'è, cioè, un muro, perché sta a guardare il muro sto gatto? Non sta guardando il muro, sta guardando il nonno. Certo, vabbè. Sempre così. Vabbè. Il nonno che non ho avuto mai. Esatto. Tu sei il nipote che non ha mai avuto anche un nonno, quindi che culo. Anzi, quello è un nonno che non ha mai avuto un nipote che come te, cioè nel senso voleva proprio. E noi glielo raccomando, ecco. No, ma lui così lo voleva il nipote. Vivo. Viene da te. Sperona. Beh, io ricordo a nonno la diagnosi poc'anzi fatta da Francesco che mi riguarda, per cui non so se gli conviene, ecco. No, quello, me sono ammasso persa. A quello io come me te la sei persa? Che me sono perso? La diagnosi. Francesco, vuoi ricordare se c'è Francesco? Perché pure lui magari sta guardando nonno. C'è, solo che vi ascolto volentieri. Ma quale diagnosi? C'era solo una descrizione accurata. Esatto. La descrizione a volte può essere una diagnosi. No, non è necessario. È una qualità, come si dice. Un tratto distintivo. È un tratto distintivo, sì, bello, mi piace. Quindi sei solo... Quindi sei solo tratto e distintivo? Sono tutto tratti e distintivi. Ok, sei solo tratto e distintivo. Vabbè, l'ho detto io, basta, non ripetete in tre. Cioè, tratto e distintivo. Tratto e distintivo. Ci piace. È un tratto che ci è piaciuta. Bravo. Cioè, invece di lamentarti, dici, cazzo, ci è piaciuta talmente tanto sta battuta che quasi che la stanno ripetendo. Ripetiamo all'infinito. Esatto. Senti, ma a proposito, Francesco, avete visto che il caro De Luca è un pochino nei casini? Di nuovo. Ho solo letto che per l'ennesima, ma tanto sopravviverà pure a questo, non ti preoccupare, cioè, figurati. Praticamente che ha fatto? Pare abbiano aumentato, hanno adeguato le pensioni minime, sì. Non ho capito se di dipendenti pubblici o chi, Campani, usando dei fondi europei e non potevano farlo. Sono soldi. Qualcosa ce l'hanno dati, qualcosa ci dobbiamo fare. Giusto, invece di tornarli indietro, di restituirli per chi non ci hai fatto niente. Diciamo. Ma invece di fare la saga della zizzona di Battipaglia, hanno dato. ragazzi. Quindi che succederà? Che tu sei informato, Francesco? Adesso, cioè, ma è vera questa storia? Sono male lingue dell'opposizione. No, pare che è vero, poi che cazzo ne sacci, mica sto in casa di De Luca, ci parliamo la stessa lingua, però non vuol dire dovresti saperle certe cose, però insomma. Invece, per esempio, un altro guaio riguarda questa volta Reggio Emilia, è stato tipo teatro di una sorta di raduno arrivati da tutta Italia, queste decinaia di persone per questa manifestazione, questa, come si dice, corteo provvita contro. Non me ne sono nemmeno accorto, figurati quanto rumore hanno, quanto hanno disturbato, quanto è successo hanno avuto. Sì, cioè, davvero quattro stronzi da tutta Italia. Era il solito chierico da guerra di Warhammer, quello che va in giro armato con la croce della battaglia. Ah, quel tizio, quell'altro truffatore matricolato. Guardi, sei buono a fan cazzo, scusa, non volevo interrompere questa discussione interessante, però ci tenevo a far sapere ai nostri ascoltatori che Guardi non è buono a fare un cazzo. Quindi... Non ho i mezzi. Ma non hai i mezzi? Apri. Una volta aprivi le bottiglie con i gomiti, cioè, mo adesso non sei non ho più buono. I gomiti. Non ce li ho più. Con i gomiti degli altri. Tra... Degli altri, esatto. Esatto. Non ho più per i gomiti. Questo motivo non riceverà la birra. Esatto, bravo. Aspetta, che voglio far sentire una cosa importante, ragazzi. Sentite. ASMR. Che bello. Ah, proprio. Se la Coca-Cola faceva pure più capito, quindi adesso se volete facciamo anche un po' di pubblicità alla birra La birra Vomitoni è la birra del gruppo rock di quelli di stamattina, sì. Chiericale, che abbiamo che fermo sentire solo fra qualche mese. I Vomitoni from Los Angeles, California hanno, esatto, fatto anche questa birra che è buonissima, ai quattro santi luppoli. Ai quattro spuppoli. Eppure dovrebbe esistere un log per sapere le canzoni che ho passato, sai? Cioè, deve essere un modo. Beh, uno cerca l'album Amen. Devo dire che la Poretti quattro luppoli dopo l'Heineken è dolciastra. Sì, è dolcina, però ci sta, dai, comunque. Tra l'altro io oggi ho sudato in un modo, secondo me, anomalo, cioè nel senso, non è che usciva sudore dal mio corpo, usciva proprio l'acqua, cioè proprio, si sentiva proprio, sgorgavi proprio. Bravo, faceva sglop proprio, sentiva per terra e cascavano. Cioè tipo liquefazione del sangue. I goccioloni. Mi è successo settimana scorsa, che peraltro faceva molto più caldo di questa, mentre facevo lo sgrosso alla cucina, appunto. Per rimanere in tempo. Ma levavi la barra? Esatto, la barra. Ne è valsa la pena, sei riuscito a sgrossare. Innanzitutto, poi quella roba che hai tolto, no? Ah, io dove? Ne appena del televisore? Sì, hai ragione. Cosa hai fatto della roba che hai tolto? Cioè, ci ho condito la piadina. Perché insomma, secondo me ci è uscita tanta roba. Mamma insomma. Mia, ragazzi. No, non lo vogliamo sapere. Lo zozzone matricolato che abitava in quella casa prima di me, io credo che in 10 anni che l'ha abitata non abbia mai, e dico mai, fatto le pulizie. È per questo che l'ha venduta a metà del prezzo. Eh sì. Mamma santa, ragazzi, quello che ci ho trovato. Perché il trucco è non fare un cazzo in casa. Esatto. Quando diventa troppo sporca. Ma vuoi mettere la soddisfazione? Esatto. Avere la soddisfazione di potersi permettere di vendere una casa a metà prezzo solo per non avere voglia di pulirla. Capito, raga, però se ogni volta la rivende a metà di quello che l'ha comprata. Non arriverà un euro. Ma magari è ricco, esatto, di famiglia. Ma non gli frega un cazzo a lui. Punto, fatto. Tanto salutiamo Melanie Simone, che prende in giro il povero Marco. Cioè, perché io prendo in giro il povero Marco? Preso in giro, ha detto la verità. Non è capace a fare niente. No, assolutamente. Io mi vanto di questa cosa. Esatto, infatti. Ma tutti un po' ci vantiamo di questa cosa. Noi abbiamo fatto questa trasmissione, ora vi racconto. Perché non sappiamo fare niente. Perché abbiamo chiamato questa nuova versione di OGM Aperti per Ferie? Perché Aperti per Ferie era praticamente il prototipo che iniziamo a fare io, Marco e Sbano prima di creare OGM. E quindi era d'estate, facevamo queste trasmissioni un po' così random. Quindi questo ritorno indietro ci fa capire, non soltanto dal punto di vista nostalgico, ma ci fa anche capire che abbiamo sbagliato, che tutto. Ci siamo messi insieme proprio perché non siamo capaci a fare nient'altro. Esatto. Cioè, nel senso, invece di abbiamo sbagliato tutto, dovevamo continuare a fare Aperti per Ferie una volta l'anno. Esatto, e sarebbe stato perfetto. Esatto. Beh, non era una volta l'anno, facciamo pure una volta a settimana. Ridendo, scherzando e tornando indietro, ci troviamo a luglio 2018. È vero, siamo a luglio 2018, quindi top, dice. Io in realtà ti sto leggendo, ma non ti sto leggendo perché io non sono in diretta in questo momento. Vorrei che la gente capisse che quello che sentirete nelle prossime serie sono tutti, diciamo, programmi registrati e mai trasmessi, solo appositamente per farli sembrare in diretta. Esatto. Poi ci sono delle date perché random. Perché tutto questo però non fa niente. Però è il testamento spirituale di Runtime Radio. Giusto. Perché noi in realtà siamo già tutti morti. Che ha chiuso Runtime Radio. Cioè, noi siamo già tutti morti. Questo, voi quando lo sentirete nel 2184, scavando nelle macerie, troverete un USB con le puntate dentro, e dice: ma chi è sta gente? Siamo allora, tutti morti. Io quindi dovresti dire: caro archeologo del futuro, poveraccio del futuro, rigiudi. Allora, ragazzi, io per contratto non posso fare troppi spoiler sul futuro, ok? Però una cosa ve la voglio dire. Chi t'ha fatto il contratto? Fidatevi, Querti. Fidatevi. Allora, nei negozi, nelle sanitarie, nelle farmacie, vendono delle mascherine come quelle che si mettono i medici quando fanno le operazioni, o anche addirittura quelle proprio con l'elastichetto più rigido, si chiamano FFP2. Allora, io non ve posso mostra spiegare. Andatevene a comprare un botto, tenetevele da conto, perché vi dico che vi torneranno utili. Però, Walter, vogliamo fare una cosa proprio buona? Facciamola. Una cosa buona. Allora, ragazzi, questo lo facciamo, però, ragazzi, cioè, nel senso, tanto ci ascoltano in pochi, e voi pochi usate questa informazione per migliorare la vostra vita, non per fare gli stronzi. Allora, il campionato di calcio 2022-2023 lo vince il Milan. Ragazzi, io non so quando verrà trasmessa questa puntata, ma dovesse essere trasmessa prima che finisce il campionato, ecco, insomma, scommettete. Se invece viene trasmessa dopo, vabbè. 2021-22. No, come 22? No, 21, 22, 23. Ah, è vero, hai ragione. 22, hai ragione. Però potrebbe essere che ne magari sai, anche nel 2023, sai, però hai ragione. Perché poi dopo però sono meno sicuro su quella 2023. Sono meno sicuro, invece che nel 2021, 22 lo vince il Milan, quello sono sicuro. Quindi insomma andate e scommettete. Cioè, sei sicuro? Sei abbastanza sicuro? Io sicuro, voglio dire anche sicuro un'altra cosa, raga, non comprate il biglietto per i mondiali del Qatar l'inverno che fa freddo, inutile, e fatevi servire. No, fa freddo che dove? Là non fa freddo. Sì, se volete pure andare a fare un giro, che ne so, a Kiev, pensateci. Andate. A Capodanno ci potete andare, ecco. A Capodanno sì. Per esempio io conoscevo in primavera, perché dice ci sono i fuochi d'artificio, esatto. Sì. I vicini. Poi insomma, volendo proprio, investite sul pellet, fatevi una bella stufa pellet, compratevi 7-8 bancali. Allora, questa cosa del pellet, ragazzi, mi ha fatto venire in mente una cosa sconvolgente che ho scoperto recentemente guardando YouTube. Una cosa sconvolgente e a tratti allucinante. Dandy. Voi non sapete che c'è un audio episodio di Topolino, versione italiana, che la Disney non ha mai approvato, ma non ha mai neanche disconosciuto, fatta durante il periodo del fascismo, dove c'è Topolino che esorta tutti ad andare in guerra in Africa e poi canta la canzoncina che lui... ammazzerà un sacco di mori, perché allora non si diceva negri o che ancora non era stato mutuata questa parola, e ammazzerà tanti mori e tutte le pelli dei mori le regalerà alla madre, alla cugina, alla nipote, cioè una cosa, ragazzi, fascismo. Questa cosa sta citata in un libro che si chiama Eccetto Topolino, che ha pubblicato una casa editrice che si chiama Nicola Pesce, che fa libri specialistici, diciamo, su questo argomento e pubblica fumetti. In realtà non è del tutto vera, nel senso che Disney ho sentito l'audio. No, Disney America, questa cosa non ha mai saputo che esistesse Fino a tempi relativamente recenti. È vero, però poi dopo che l'ha saputo l'ha disconosciuta, non lo so. Sì, in pratica, no, allora c'è tutta una produzione che è stata fatta con i personaggi Disney durante il ventennio, che Disney, diciamo, casa madre, non l'ha mai riconosciuto, perché quando scattò l'autarchia, quindi c'era il divieto dell'importazione dei prodotti anche culturali dall'estero, e da qui il nome del libro, il duce pretese Eccetto Topolino, perché pare piacesse ai bambini suoi e lo ritenesse un personaggio, come ti posso dire, troppo popolare per farlo sparire di punto in bianco, sarebbe stato un boomerang. Quindi cessarono i rapporti con la Disney, gli altri personaggi della Disney vennero nascosti sotto il tappeto, ma venne fatta tutta una produzione, diciamo così, autoctona di materiale di Topolino a scopo propagandistico, tra cui questa. C'è anche Pluto che parla, tra l'altro, in questa. Sì, c'è tutta una serie di robe strane che sono state fatte in quel periodo. Di più, questa cosa della pelle dei neri, dei mori, ragazzi, ma sconvolto. Avete presente a Flash Gordon, no? Quello usciva, usciva sotto forma. Ma così è. Che il film preferito della regina Elisabetta, se lo vede ogni Natale, pare. Quelle uscivano, quelle strisce, e venivano importate sui giornali italiani. Quando scattò l'autarchia, venivano lette e viste dai disegnatori italiani e venivano riprodotte da disegnatori locali. Sì, un sacco di quelle strisce sono state disegnate da un giovane Federico Finale e sono oggetto di collezionismo. Sì, diciamo che c'è anche la cosa di Nemo Kid, no? Cioè il fatto del che tu lo vedi, alla fine è Superman, solo che nell'esagono che c'ha davanti non veniva disegnata la S. Esatto. Quello è stato fatto per motivi più che, diciamo, di autarchia, per motivi culturali, perché no, per evitare gli anglicismi. Però si chiama Nemo Kid, cioè, Vabbè, Kid era un riferimento al West, che era comunque molto popolare come Poi tentarono di sostituirlo con altri personaggi tipo Dick Fulmine, Den Drago, altra roba. Cazzo strana. Fulmine. Esatto, che veniva prodotto. Dick Fulmine. Sapete che io c'era un cane che si chiama Dick. Anche Totò. Sì, Dick Fulmine, diciamo che non è un bello soprannome da dare, cioè, perché se pensi, diciamo, al livello di prestazione, vuol dire che c'è un problema. Esatto. È come Flash, insomma. È anche Flash, esatto. Beh, Flash però in realtà... Infatti è Flash. Flash. Ecco, così faceva la canzone. Stavamo in pensiero. Allora, ragazzi, che dire? vabbè, però siamo così caduti nel ricordo. Vabbè, abbiamo parlato di un cazzo, abbiamo parlato di tutto. Brutto fascismo. Io poi non sto assolutamente seguendo se tipo è caduto il governo o no, perché l'unica cosa, ragazzi, a settembre scatta il vitalizio anche per i parlamentari di prima nomina. Non cade neanche se dovesse cadere sto governo, fa fare il Draghi bis, è abbastanza evidente, tanto ormai tocca procrastinare fino al 2023 e vedere che succederà alle elezioni. Anche perché io passo ore e ore su Twitter, ma guardo tutto. Succederà l'autarchia a marzo-aprile 2023, o sei tu? A proposito di autarchia, diciamo, smettete di rottare per cortesia. È stato il bambino. Vabbè, okay. Non ho ruttato io. A proposito di autarchia, sembra che, diciamo, visto che in Russia si sono appropriati del marchio facendo loro della McDonald's, tutto, hanno fatto il loro buono e basta, però pare che abbia finito, si è in crisi di patatine fritte, non c'hanno più patatine fritte, ingredienti scaduti, patatine che non ce l'hanno, ovviamente la Coca-Cola non c'è. Vabbè, ragazzi, peccato, ci volevo andare a fare una recensione io. Ma poi anche farlo da qua, la recensione, cioè, tanto se non c'è roba da mangiare, cioè. Guarda, so che stanno aprendo però un altro franchising che è molto interessante, che si chiama Kentucky Fried Coppertons. Esatto. Vabbè, non è tanto differente da quello originale. Tanto fritto buono tutto, ragazzi, ricordiamocelo. Esatto. A proposito di fritta e frittura, Questo franchising, poi c'è, cioè, questo franchising nuovi russi, poi arrivano anche in Europa? Magari, mi piace. Sì, con le bombe. No, pensavo che fosse, cioè, direttamente con la roba scaduta, cioè andassero direttamente così. Ma guarda, nei ristoranti italiani la roba scaduta abbonda senza allora bisogno dei franchising. Tranquillamente farlo. Insomma, funziona. Sì, guarda, anche le friggitrici che lascia sta diventa petrolio prima di cambiare quell'olio. La densità. Ma in realtà loro quando hanno aperto questo nuovo McDonald's, cioè nelle friggitrici c'era ancora l'olio, quello che quando hanno chiuso il McDonald's, quindi. Ragazzi, sì, ma è come sicuramente dei singoli carri armati che lo utilizzano. Allora, il problema è come a Bari, che si diceva sempre che c'era una friggitoria che cambiava l'olio ogni 50.000 panzerotti, ogni 25.000 chilometri. C'era questa. No, comunque il problema di quell'olio che dei McDonald's russi è che se tu spegni la friggitoria, poi solidifica. Ti butta tutto, capito? Cioè, no, è come l'alto forno, devi continuazione, se no è macello. Cioè, quindi penso che come le macchine del caffè degli autogrill, dici che non si spengono. No, ma c'è quella città più fredda dell'universo, spersi in Siberia, praticamente del mondo. Vabbè, che praticamente le macchine tu le devi lasciare accese, perché una volta che la spegni, ciao, è fottuto motore. Davvero, che ci stanno le macchine parcheggiate accese, perché non si possono spegnere. Pensa un po', ma succede? Che culo, io non vedo andarci ad abitare. Quindi praticamente fa il pieno a motore, cioè non acceso. Puoi neanche pisciare fuori, perché se pisci fuori la proprio ti fa vedere proprio la tigna del russo fin dove può arrivare, perché noi già solo a pensare che diciamo, ma magari d'inverno dovrete ne abbassare un grado, cioè la gente arriva con i forconi al curilare, là se dicono qua spegniamo tutto, ok, si adattano, basta, cioè sono abituata a sta andare a merda, su questo ci battono. Sì, sì, è storico, insomma, sto fatto, cioè non è che è una cosa, cioè ci sono radici, ragioni per tutto questo, che poi alla fine tutto sommato, dai, insomma, basta di litigare, fare la guerra, perché insomma io vedo che poi alla fine gli affari tra Occidente e Russia continuano a farsi tranquillamente senza tanta nonchalance, quindi vabbè, continuiamo così. Più o meno sì, perché appena la guerra diventa sistemica, cioè diventa dentro al sistema, diventa funzionale, e poi perché farla fermare? Può diventare... Soprattutto perché più distruggi più ricostruirai. Esatto, quindi... può diventare comunque un mezzo di nuovo business, per cui mi dia. E non ci arrivo. Allunghi il braccio, scusi, che cazzo. Allunghi il braccio, poi mi sento un fasio. Si allunga il braccio. Beviamoci sopra questa buonissima birra, ricordando della la vostra salute, che viene della brewery dei vomitoni from Los Angeles, California, grande esatto. Gruppo italiano, pro cristiano. Allora sì, diciamo procrastiniamo prog death metal, che però fa canzoni cristiane, cioè nel senso devote all'aria. Ricordiamo l'ultimo album Amen Amen, esatto, quindi è importante, perché insomma, le ragazzi, belle... esiste una linea di gioielli che si chiama Amen. Vabbè, ma noi glielo diciamo, insomma, cioè... e però esiste pure un'altra, un altro album che si chiama Yemen. Chi Yemen? Cioè, nel senso, vado lì e gli lo cork di mazzata. Esatto, quindi è piaciuta questa? Mamma mia, ragazzi. Bella, bella. Se non fosse che è ancora il 2018, esatto. Sarebbe quasi brutta, però nel 2018 era divertente. Mi ricordo che nel 2018 è divertente. Ti ricordi? Sei nel 2018, che sì, ti ricordi? Cioè, quindi ricordo in questo momento la trovi divertente. Quest'anno ricordo che è divertente. Ma guarda, io mi auguro per un prossimo futuro, secondo me, la hit metal che spaccherà. Quella che secondo me, se la facessero, vincerà tutte le classifiche, scalerà tutte le charts del mondo. È una produzione. Charts? Le classifiche. Bronson. Charles Bronson. E i Manowar Steel in featuring con Giorgio Mastrota. Guarda, c'ho anche... Sai che nel 2018 era già uscita. Sì, non mi ricordo. Vabbè, ma tanto. No, io invece scommetto. No. Scommetto che nel 2022 tornerà di moda Master of Puppets, così a caso, e anche una canzone di Kate Bush. Adesso mettiamo, mettiamo purtroppo un po' meno nota, una canzone mezza reggae. No, scusate, Puccio, tu che sei quello preciso, sempre quello, mi hai rovinato uno sketch a buffo perché la polenta da Ragnarok è del 2021. No, ma quello il featuring con Mastrota è prima. No. Sì. Mastrota, Giorgio Mastrota non c'è nessun, cioè, non c'è nessun video, che hanno preso i pezzi della pubblicità e l'hanno schiaffata nel video. Lui compare volontariamente nella parenta da Ragnarok. Quindi... Scusa, Gualdi, che hai un problema di enfisema? Perché? Ha preso aria. Cazzo, ne ha presa tanta. Prende un po' d'aria, esatto. Che forse è meglio. Allora, Gualdi, ti metto alla prova. Farci sapere, metto alla prova la tua cultura musicale. Questo è Jimmy Stepson, mi ricordo. Sì, beh, questo è Stepcost, James Stepcost, che praticamente ha prodotto questo album nell'85, però in realtà non l'ascoltava nessuno, quindi è andato avanti per tipo 20 anni cercando di farlo ascoltare, e alla fine è riuscito a produrlo con una società, con distributrici, che è la stessa che distribuisce Amen dei Vomitoni from Los Angeles, California. E questa è una bellissima canzone che parla appunto della perdita di senso del tatto. E infatti qui ovviamente c'è questo, il protagonista di questa storia che viene raccontata nella canzone, che perde il tatto e quindi cerca di tocca le cose cercando di capire se è ruvida o se è liscia. È un dramma che la fregna per cose in generale, cioè sempre così, cioè, in generale lui toccava in giro toccando le cose, anche le persone, anche che si sentono un po', insomma, anche indispettite dal fatto che arriva uno e le tocca, però dice: no, guardi, ho perso il senso del tatto. E quindi dall'altra parte c'è comprensione, perché poverino. Quindi che fa? Tocca? Questo finisce, infatti la canzone finisce, faccio, lascio. Finisce. Scusate, con questa canzone che dice che fa tocca. Scusate, possiamo fare un attimo una digressione in terra di Russia di nuovo, perché mi è appena capitata sotto gli occhi una notizia curiosa, mettiamola così. Leggo direttamente da ilpost.it: finto campionato di cricket messo in piedi in India per truffare un gruppo di scommettitori russi. Quattro persone sono state arrestate per aver inscenato partite truccate trasmesse via internet in alta definizione e giocate da braccianti agricoli locali. Bellissimo, applausi. C'è una costruzione, un pensiero, una regia. Cioè, io vi giro il link, perché siete autorizzati a non crederci, però quanto male. Ma questa è la stangata, cioè para. Non erano certo degli oligarchi questi russi, però, perché si sa, gli oligarchi hanno... Cioè, difatti, Marco, nell'articolo c'è scritto: ricorda la stangata con Paul Newman. Cazzo, è quello. Praticamente, il finto campionato inventato dai truffatori si chiamava Indian Premier Cricket League. trasmesso su YouTube, concluso a maggio. Tre settimane dopo la fine del vero campionato era iniziato quello finto, che è andato avanti per varie settimane ed è arrivato ai quarti di finale. Al posto dei giocatori sono stati ingaggiati dei braccianti agricoli e giovani disoccupati che indossavano le divise di vere squadre della Indian Premier League e venivano pagati 5 euro a partita. I truffatori avevano affittato una fattoria nella zona del Gujarat dove avevano creato un campo in cui si tenevano le partite. Beh, hanno investito, c'è da dire, perché comunque per renderla credibile. No, ma aspetta, c'è anche il tocco di glass. In sottofondo venivano inseriti rumori plausibili per una partita in uno stadio scaricati da internet e ingaggiato un telecronista in grado di imitarne uno che commentava davvero la India. Questi anni e anni di expertise, sti indiani a fare le cose a un euro all'ora, però nel frattempo poi guarda come ripiegano, poi come ci fanno la resta, poi cioè come ci hanno un ritorno. Bravi, bravi. Io non posso che applaudire quando ci stanno delle pigliate per il culo, tra virgolette, innocenti, così fatte bene, cioè solo applausi. Beh, innocenti, qualcuno ci ha rimesso i soldi, però sono russi. Sì, nessuno ha morto. Nessuno evidentemente morto. Li avevano, perché se li puoi spendere in scommesse sportive. Sì, in scommesse, cioè, ti vai a cercare proprio il campionato indiano e ci caschi pure, cioè. Lo sport nazionale indiano, in effetti, il cricket, se la battono con gli inglesi. Tra l'altro sì, io quando sono stato in Nuova Zelanda c'era sto cazzo di cricket in televisione, che ragazzi, se il baseball è noioso, il cricket che ne come è... si chiama? Lascia stare che... A proposito di sport strani, quello sport che è prettamente irlandese, gaelico, che praticamente si gioca come una partita di calcio, ma oltre la porta normale sopra c'ha tipo la porta da rugby. Cioè, è terribile. È il Quidditch. Quindici, no, però le regole sono più o meno simili. O squash it. O squash it. Vabbè, se ti viene in mente, no, cercalo su Google. Una cosa, lasciamo un cliffhanger per la prossima puntata, così gli ascoltatori si sentiranno in dovere morale di ascoltare la seconda puntata di Aperti per Ferie, che sarà prossima volta. Allora, a dicembre, sì, allora, del 2015. La scelta è quella di andare un giorno a settimana randomico. Però prima di chiudere, andare ai saluti, ci tengo a fare la prova musicale anche con Francesco, perché l'ho fatta ovviamente con Marco, la devo fare pure con Francesco, molto brevemente. Vediamo un po' se riusciamo a farla, perché sai, questo è tutto misterioso, sai? Maledetto, perché non parti? Andovino con 3. Vai. Questi sono gli amici di Satana, ma quello buono. Che praticamente sì, sono un gruppo, vabbè, sì, di sludge metal, si crossover, chiamano, infatti, pop. Satan's Friends. Stata zitta, è il mio momento. No, hai ragione, Gualdi, scusa. Scusa, Gualdi. Che praticamente hanno, cioè, sai, ci stanno dei gruppi che si inventano tutte queste storie, magari delle lore finte, però stavolta è vero, nel senso che loro si è inventato tutta questa cosa, che noi siamo sì brutti satanisti, però di Satana che è quello buono, perché c'è il gemello buono che nessuno ne parla, perché giustamente quello cattivo ha cercato di oscurare, e comunque dicono sì, perché si sono rotte, questo diciamo per rendersi accessibili anche alla gente che magari li accusa di essere satanisti e tutto, sì, però loro si mettono sempre avanti che sono per la bontà, cioè diciamo per le cose, esatto, belle fatte. E comunque il bassista praticamente era mio vicino di casa. Poi, cioè, non è che aspetta, precisa, perché alcuni potrebbero, non è che era un tuo vicino di casa, è che era mio vicino di casa, lui si chiamava così proprio. No, era mio vicino di casa, e suo cugino si chiamava mio vicino di casa proprio, però di cugino un po' alla lontana. Comunque il bassista era rinnovato perché suonava il basso a una corda, ma semplicemente perché era così povero che si erano rotte le altre corde, e non c'aveva per le spese. Sì, e infatti si suona quelle 12 note e basta, infatti però comunque sai com'è il minimalismo, sai, diciamo, che comunque stimola il problem solving, sì, perché dice comunque questo ci rimane. Poi ci hanno regalato un altro basso e si è depresso perché dice ma non c'è, troppe corde, non ce la posso fa più. E invece il batterista il batterista. Vabbè, non c'è il batterista, ci racconta tutta la storia della band, basta. Sì, no, il brano invece, anche perché sono un bassista e un batterista nella band, esatto. Però non ho detto il nome del brano si dice mazza che fregna, ah no, ma è un cesso, che schifo. Tra parentesi, meglio di culo che di faccia. ed è una critica, diciamo, a quel, cioè, al politicamente c'è corretto, c'è il sunto, diciamo, degli anni '80 è un titolo così. Guarda, mi ricorda il detto, sì. Il detto lucano, girate faccio, che culo te sacci, che culo te sacci, non è solo lucano, ma questo penso che parla anche un po' dell'uso di alcolici e di droghe, che un po' falsa una percezione. No, era un altro album, quello è Pisce e Bive, quello là, Ok, sì vabbè ragazzi, li confondo allora spesso. Io, giusto per dare un po' di proprio un altro album pure, giusto per dare un po' di giustizia, questi si chiamano Garvigs e il brano si chiama Blood of Garuda, non so che cosa. Ah, Garuda Kappasutte, non so chi sia Garuda, Garuda è un kaiju. È un kaiju. Allora, la Garuda è un kaiju. Garuda sì, è un kaiju. Potrebbe anche. Che la Garuda invece, la Garuda è un nemico di Mazinga Z. Tra l'altro questa canzone dura 7 minuti ed è tutta così, quindi... Ah, ascoltate, mi dicono dalla regia che è anche una divinità perlomeno indonesiana. Ah, ok. È Garuda. Quindi, e Garuda si è fatta male. Sta Garuda, esatto. Se Maronne, se Garuda esci del blog. Sì, sì, come l'americano che è Garuto nel cratere del... Cioè, gli era scappato il telefono. Già ma era, no, era inglese, era inglese. No, americano. Americanissimo. Sì, ovviamente, sì, inoltre senza biglietto per i sentieri. Non è morto. Se inoltre per i sentieri per le zone che non devi battere sul pericolosi del Vesuvio, te vuoi fare il selfie, ti cade il telefono nel cratere, tu dici "Oh cazzo, my iPhone, I need to..." te butti dentro per prendere, poi esatto. C'è un po' male, di confusione, diciamo, sì. C'è zitto sangue, ma che cazzo tu fa cioè a meno che cazzo ne so, cioè, aveva giocato troppo a Morrowind, che cazzo, vabbè, del coso. Sono le 11, mi avete rotto il cazzo, saluto, sì. E ringrazio Walter Sbanis, buonanotte. Saluto. Non sono le 11, menti rosso. Saluto e ringrazio anche, come ti chiami? Marco Gualdi. Mi chiamo Garuda. Garuda. E Garuda. Saluto e ringrazio anche Carmine Puccio Console. Io vado a giocare a cricket, ciao ragazzi. Anch'io, dopo ti seguo. E saluto ovviamente anche Francesco Lobby Frontali di Muro. Io invece mi ascolto, diciamo, Satana Cattivo e basta, che è l'altra band che hanno fatto dopo quando se ne accortano, ma no, a noi ci piace essere cattivi e basta, poi. Però è diventato un gruppo Christian Rock. Buonanotte a tutti. Ciao.